Lei ha detto che guardando quelle cose lì, quello che è accaduto, insomma, Era quasi entusiasta. questo è. Io sono entusiasta perché mi sembra veramente Cioè, lei è entusiasta della violenza che c'è stata, no? Mi scusi. sono entusiasta del fatto che gli studenti finalmente e le persone finalmente scendono in piazza e Questo non è. manifestano e esprimono il loro diritto alla vera democrazia e non la democrazia che queste persone qui, che sono i veri delinquenti, Chi che sono i ci veri delinquenti? propinano. Chi sono i veri I delinquenti? delinquenti sono i parlamentari che hanno gli avvisi di garanzia a cui noi paghiamo lo stipendio. No, no, no, mi Sono scusi. loro i veri Ai, ai, delinquenti. ai, ai, no, Santa Maria, no, no.